Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. L'efficienza energetica col tempo si ripaga da sola. È una constatazione del tutto banale che però alla fine riassume al suo interno tanto le opportunità quanto le difficoltà che questo paradigma del risparmio energetico incorpora. Il tempo è proprio il fattore determinante e più precisamente il tempo che separa il momento dell'investimento da quello del suo ritorno economico. In mezzo ci stanno tutte le incertezze. Siamo sicuri che il risparmio sarà quello atteso? E anche ammettendo che lo sarà, vale la pena di impegnarsi economicamente per fare efficienza energetica o magari è meglio usare i soldi per qualcos'altro? Ebbene, questa sera parliamo di una forma contrattuale di cui abbiamo già parlato un paio d'anni fa, che ha esordito da non molto però sul mercato e che per così dire taglia la testa al toro. È il contratto servizio energia che dobbiamo tutti imparare a conoscere. Ne parliamo con Vincenzo Albonico, presidente di Agesi, l'associazione imprese di facility management ed energia. Buonasera Albonico. Carissimo Melis, buonasera. Allora, che cos'è e a chi è rivolto il contratto servizio energia? Bene, il contratto di servizio energia non è altro che un contratto assolutamente trasparente fra un operatore che oggi viene definito ESCO con un acronimo un po' difficile in quanto praticamente Tabella Energy Service Company, ma è una società che è in grado di offrire dei servizi completi ed integrati per fare efficienza nel sistema edificio impianto. Oggi i maggiori utenti di questi tipi di servizi sono e possono essere effettivamente i condomini. Ecco, facciamo un esempio. Cosa fa la ESCO? Facciamo un esempio proprio sul condominio. Bene, sul condominio un caso classico: i tecnici della società che va a proporre un servizio energia non possono fare altro che intervenire, fare un sopralluogo. Nel fare il sopralluogo verificano le condizioni sia dell'immobile da un punto di vista delle condizioni di isolamento dell'immobile, verificano tutti gli impianti di produzione di energia termica, cercano all'interno di tutta questa analisi che hanno fatto di trovare una soluzione che sia un mix equilibrato di interventi di miglioramento delle apparecchiature, di modifica eventualmente degli impianti di distribuzione, di isolamento termico, di eventuale utilizzo di fonti rinnovabili, in modo tale da poter garantire un risultato in termini di efficienza, che significa consumare di meno a parità di condizioni termogrammetriche ambientali interne, per cui l'utente dell'appartamento, senza nulla rimettere da un punto di vista di qualità dell'aria all'interno e di temperature, deve poter spendere di meno perché si sono ottimizzati gli impianti. Quindi sostanzialmente la ESCO prefinanzia anche queste opere e l'utente finale, prego. E questo è il punto importante, perché altrimenti se non fosse la ESCO a prefinanziare non ci sarebbe nessun motivo di rivolgersi a una ESCO, no? Certo, esattamente. È chiaro che quegli investimenti devono essere ripagati e quindi in funzione di quello si fissa un certo numero di anni per il recupero di questi investimenti che vengono fatti, che a secondo delle situazioni e delle circostanze, nei casi in cui io posso e si riesce in questo paese ad ottenere, ci sono delle situazioni nelle quali si possono avere dei risultati di un meno 30% rispetto ai consumi prima degli interventi, perché abbiamo delle situazioni impiantistiche che sono mediamente veramente disastrose, se quindi vogliamo. Questo 30% lo incamera la ESCO, e questo 30% in funzione degli accordi che vengono presi fra l'amministratore di condominio, che generalmente è il soggetto che gestisce un po' queste cose, che dovrebbe gestirle, sostanzialmente possono essere utilizzati per ammortizzare gli investimenti che la ESCO fa, possono essere suddivisi fra la ESCO è l'utente finale, ma una cosa è certa: la ESCO, se è una ESCO seria, deve comunque garantire un determinato risultato, che poi non è detto che sia sempre il 30%, è probabile anche che sia un 20% o un 10% a seconda delle situazioni dell'immobile, perché se un immobile è perfetto e gestito perfettamente, la ESCO interviene, può mantenere trova margini molto ridotti di miglioramento. Certo, se l'immobile è disastroso, quindi magari va anche sopra il 30%, certo, no? Ma io dico, non ci sono limiti all'ottimizzazione e al miglioramento, dipende da quali sono le condizioni di partenza, insomma. Dunque, chi dovrebbe approfittarne e non lo fa? Chi dovrebbe utilizzarlo, il contratto di servizio energia, fondamentalmente nel settore del privato, sono i condomini. Quando parliamo di condomini centralizzati, ce ne saranno 60-70 mila in Italia, con un numero di appartamenti superiore ai 20, beh, quelli effettivamente hanno un interesse incredibile, perché una cosa è andare a sostituire i pezzi singolarmente, una cosa è invece andare a fare una diagnosi energetica, che oggi fra le altre cose deve essere fatta per la certificazione energetica. Mi dice lei perché non lo fanno? Che non lo facciano oggi deriva da tanti problemi, molto probabilmente da una carenza di informazione e da una incapacità che abbiamo noi in questo paese di fare sistema a livello di operatori e clienti. I clienti, il sistema finanziario, anche dall'altra parte, che non capisce bene queste operazioni, sembrerebbe, ma non riesce a valutarle. Anche gli amministratori, sino all'altro ieri, direi sono stati un po' resti a prendere in considerazione questi tipi di servizi. Purtroppo ci sono dei problemi. Se io, utente, condomino, amministratore, faccio una serie di interventi nel mio condominio, sostituisco la caldaia, la pompa di calore, metto il pannello, ho un IVA al 10 facendo questi interventi singolarmente. Se io chiamo una ESCO per fare un contratto di servizio energia, che praticamente è un contratto che ricomprende all'interno una serie di quelle attività che le ho prima enunciato, in questo caso paga l'IVA al 20. E a questo punto praticamente quello che si potrebbe fare, i 2 miliardi di mercato potenziali che ci sono sul mercato di questi tipi di condomini che le dicevo, anziché essere 2 miliardi sono 600 milioni. Questo è quanto. Grazie Vincenzo Albonico. Grazie a lei, arrivederci. È tutto, a lunedì.